Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti Estate, voci dalla nuova emigrazione. Oggi affrontiamo una professione che stimola molto la fantasia e l'interesse dei nostri giovani, quella del designer. Tra Occidente e Oriente, tra New York e Shanghai, vi racconteremo due storie di professionisti che fuori dall'Italia ce l'hanno fatta. Giovani che questo paese, il loro paese, tradizionalmente definito come creativo, intellettualmente fertile, non ha saputo né, probabilmente, voluto valorizzare. Vecchio e ripiegato su se stesso. Come ci scrisse qualche tempo fa una giovane designer di stanza oltreoceano, io non torno in Italia perché non esistono possibilità e strutture per poter sviluppare concretamente il mio lavoro. L'Italia è un paese fermo nei suoi squilibri, in cui l'interesse principale non è investire sul futuro, ma lasciare intatti i privilegi di alcune categorie sociali. Una denuncia dura, la sua, temi questi che ritroveremo anche nel corso di questa puntata. Iniziamo dunque con la storia di Benedetta Piantella, 29enne imprenditrice e designer sostenibile a New York. L'abbiamo incontrata a febbraio, questa è la sua storia. Nome: Benedetta. Cognome: Piantella. Età: 29 quasi 30. Città di origine: Parma. Studi: Belle Arti e Telecomunicazione. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 98 prima, 2000 poi. Per andare dove? Stati Uniti. Perché? Per studio. Quale lavoro svolge attualmente? Imprenditrice. Dove? A New York. Tornerai? Mi piacerebbe, ma non saprei come fare. A song that will take us back to the city where everything started for me. Start spreading the news. L'eterno omaggio di Frank Sinatra alla grande mela per introdurre la storia di Benedetta Piantella, 29enne designer a lavoro a New York. Ho provato a tornare in Italia quando nel 2009 la crisi ha colpito anche qui, rendendomi difficile trovare un lavoro. Ma allora mi è stato detto che ero troppo qualificata o che non mi avrebbero pagata abbastanza per rientrare. Così ha scritto Benedetta in una email a giovanitalenti@radio24.it. Si ripropone per l'ennesima volta uno dei temi portanti della nostra trasmissione. Quanto è difficile tornare in Italia dopo anni di formazione e lavoro qualificato all'estero? Apparentemente troppo. Gli stipendi mi sembrava, almeno nel 2008-2009, che fossero molto più bassi in Italia che negli Stati Uniti. Mi è sembrato che ci fossero ancora meno posti di lavoro e addirittura che le spese comunque di vita nelle grandi città fossero paradossalmente più alte che a New York. E quindi questa mia preparazione e tutti questi miei diplomi venivano quantificati da parte del datore di lavoro come una possibile richiesta di stipendio più alto di quello che erano in realtà disposti ad offrirmi. Benedetta, iniziamo dal tuo percorso di studi, che come vedremo è molto internazionale. Appassionata fin da giovanissima delle arti visive, partecipi come liceale a uno scambio di 11 mesi nel Maine. È vero che negli Stati Uniti ottieni persino un diploma? Sì, grazie alla formazione che avevo ricevuto in Italia, nel Maine avevo dei voti molto alti, addirittura l'ultimo anno avevo cominciato io a insegnare il corso di latino avanzato e questo mi ha permesso di ottenere appunto un diploma di liceo americano. Quanto è stata fondamentale questa esperienza nell'aprirti la mente? Cominciare da zero in terra straniera con pochissima padronanza della lingua, devo dire che mi ha aperto molto la mente non solo ad altre culture, ma soprattutto a quest'idea di mobilità e di trasferimento proprio finalizzati al raggiungimento di obiettivi di crescita. Conclusa l'esperienza oltreoceano, torni, ottieni il diploma al liceo classico e riparti per gli Stati Uniti, questa volta a Boston. Perché innanzitutto l'Italia ti stava stretta? Il ritorno in Italia nel 99 è avvenuto più che altro per un patto che avevo fatto con i miei genitori per permettermi di scegliere il mio tipo di università, volevano che finissi il liceo che avevo cominciato a Parma. Inutile dire che l'ultimo anno di liceo in realtà l'ho passato già proiettata con la mente verso l'università. Avevo viaggiato negli Stati Uniti a Pasqua per guardare dei campus universitari e mi ero innamorata di Boston come città. Un consiglio a un coetaneo che volesse trasferirsi oltreoceano per studiare e lavorare? Sugli Stati Uniti io devo dire che è un paese molto difficile a livello di immigrazione e quindi per gli Stati Uniti specificatamente io raccomando di inserirsi all'interno di un programma di studio a lungo termine che poi dà accesso a un visto lavorativo per un anno non vincolato a nessun tipo di società. Nel 2004 ti laurei in belle arti e arti interattive. Quale giudizio dai di quell'esperienza formativa nel suo complesso? È stata un'esperienza assolutamente fondamentale. Il programma era esattamente quello che cercavo perché era un programma che non avesse un indirizzo specifico ma che mi ha permesso di sperimentare con forme d'arte diverse, dalla pittura alla fotografia al video alle installazioni interattive. Ed è stato proprio durante questo percorso che ho scoperto la mia passione per i circuiti elettronici e il mio interesse nei confronti dell'interattività. Su questo torneremo tra poco. Durante il tuo periodo di studio a Boston ti cimenti in vari lavori. Quali innanzitutto? Ma ci dai anche un'idea della mobilità occupazionale oltreoceano? A Boston, per colpa del mio status di studente, non mi ha permesso di lavorare al di fuori della sfera accademica, quindi ho lavorato come insegnante di fotografia e nel 2003 ho ottenuto uno stage presso l'MIT LIST, che è un centro d'arte contemporanea all'interno dell'Università MIT. La mobilità è senz'altro una caratteristica del sistema americano, non solo quella occupazionale ma anche quella proprio fisica. Da Boston torni a New York, dove cominci a fare esperienze di lavoro con l'ottica di reinserirti nel mercato italiano. Lavori come grafica all'Istituto Italiano di Cultura, insegni fotografia, diventi pure corrispondente per quotidiani e blog italiani. La tua storia però è una vera e propria centrifuga che produce continue sorprese. Nel 2006 infatti ottieni una borsa di studio per un master in telecomunicazione e tecnologia alla New York University, nel corso del quale hai l'occasione di tornare, attenzione, in Italia. Come ce la fai e per fare cosa? Durante un corso all'NYU in elettronica mi è stata presentata una scheda elettronica chiamata Arduino. Quando ho scoperto sia il nome ma anche il marchio Made in Italy sul circuito scampato, ho chiesto immediatamente al mio professore come mettermi in contatto direttamente con la società. Così nel 2007 sono tornata in Italia, a Milano, per uno stage di 2 mesi presso una delle società appunto di Massimo Banzi, che è uno dei fondatori di Arduino. Esatto, e qui la tua storia si incrocia con quella di Massimo Banzi, guru del design interattivo, cofondatore di Arduino, dove vai a lavorare. Banzi, allora, che ci raggiunge dall'India, New Delhi, ci spieghi cos'è il design interattivo? L'idea è quella: se ci immaginiamo il design classico, dove gli italiani sono molto bravi, sedie, tavoli, lampade, quando cominciamo a realizzare degli oggetti che sono in grado di interagire con le persone perché hanno dentro della tecnologia, dei piccoli computer, come può essere un telefonino o un oggetto simile, bisogna essere in grado anche di progettare il modo in cui questo oggetto interagisce con le persone. Per cui il design interattivo o interaction design cerca proprio di dare degli strumenti per progettare anche il modo in cui le persone proprio comunicano con gli oggetti. E c'è spazio, secondo te, per giovani designer in questo settore in Italia? L'ambito è piuttosto grande, secondo me sulla parte che riguarda siti web in questo momento l'Italia è abbastanza allineata, per cui in quel campo si trova sicuramente del lavoro, mentre in tutte le cose che sono un pochettino più avanzate, lì siamo un po' più indietro, perché comunque le società di design classico in Italia non hanno ancora veramente acquisito questi nuovi modi di fare design. E questo rischia di tagliare fuori magari i giovani più innovativi? Io in questo momento tutti i giovani innovativi italiani che vedo, a un certo punto li vedo partire, per cui siccome io... Questo è importante dirlo. Siccome io giro molto, in realtà ovunque vado, in qualunque parte del mondo, trovo sempre un italiano bravo che è lì che sta facendo delle cose interessanti. Grazie a Massimo Banzi. Torniamo alla storia di Benedetta. Lavorare a Milano è stata una bellissima esperienza, ricordi. Rientrata negli Stati Uniti però al termine del master, maggio 2008, ti scontri con un mercato del lavoro in piena crisi, invii con una ricerca estenuante ben 200 curricula tra America ed Europa, con quale risultato? Una grandissima frustrazione. Alla fine ho ottenuto 2 offerte, una era Rotterdam con contratto determinato e una invece era un contratto solo di 3 mesi alla Smart Design, e dopo essere stata a Rotterdam ho scelto lo stage alla Smart. Conclusa l'esperienza alla Smart Design, apri insieme a un socio una startup chiamata Ground Lab. È facile aprire un'impresa e ottenere credito oltreoceano? Nel senso proprio di aprire legalmente l'entità è molto facile. Questa però è l'unica cosa semplice nel processo di aprire una società negli Stati Uniti, in quanto in questo momento non ci sono particolari sussidi, non ci sono delle iniziative particolari a supportare le piccole imprese e soprattutto le banche hanno smesso di fare prestiti. In una parola, di cosa si occupa Ground Lab, ma proprio in breve? È un laboratorio per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni sostenibili a problemi umanitari, sociali e ambientali nel mondo. Benedetta, domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Da esiliata volontaria la mia visione dell'Italia devo dire che è in continuo mutamento. Sono passata dall'indifferenza a questo senso di nostalgia di un'Italia che ho lasciato tanti anni fa. Una delle cose che sicuramente mi feriscono di più sono appunto le immagini delle donne e come la TV ha ridotto appunto la donna ad oggetto di decorazione, soprattutto una donna che raggiunge posizioni di rilievo sia politico che imprenditoriale non grazie ai propri titoli di studio, le esperienze lavorative, ma grazie ad altro. Credo che per cambiare purtroppo ci sia bisogno di una rivoluzione che nasce proprio dai giovani, dalle nuove generazioni, che devono mettersi in politica e creare delle alternative vere ai partiti che esistono oggi. Per lo spazio Intern Active vi rilanciamo la discussione sondaggio di luglio, sulla quale contiamo di darvi i risultati alla ripresa autunnale del programma tra meno di 2 mesi. Dopo il varo definitivo della legge contro esodo per il rientro dei professionisti under 40 mediante incentivi fiscali, state pensando a un rientro in patria? Scriveteci il vostro sì o il vostro no, accompagnati da nome, età, professione e città estera di residenza, più eventuali commenti e riflessioni a giovanitalenti@radio24.it. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Dopo aver ascoltato nella prima parte del programma la storia tutta americana di Benedetta Piantella, prendiamo ora un bel volo intercontinentale e spostiamoci in Estremo Oriente. A Shanghai, lo scorso aprile, abbiamo incontrato Luca Di Cesare, 32enne imprenditore e designer, che in Cina, scusate il gioco di parole, ha trovato l'America. Nome: Luca. Cognome: Di Cesare. Età: 32. Città di origine: Milano. Studi: scienza della comunicazione. Anno in cui hai lasciato l'Italia: definitivamente nel 2009. Per andare dove? In Cina. Perché? Per provare a portare l'eccellenza del design e più in generale l'eccellenza dell'estetica italiana. Quale lavoro svolgi attualmente? Designer. Dove? Tra la Cina e la Corea. Tornerai? Tornerò da pensionato senza pensione per restare, quindi. Atmosfere cinesi per introdurre la storia di Luca Di Cesare, giovane imprenditore e design director per la propria azienda. Anticipo subito, Luca, che tra le numerose email che ci hai inviato con la tua biografia e le tue riflessioni ci sono poche righe che a mio parere sintetizzano in modo esemplare la tua storia. Dal 2001 al 2006 ci siamo scontrati in Italia con una classe manageriale vecchia, biologicamente e mentalmente, con nessun sostegno istituzionale e con la carenza di chance per fare sistema con altre realtà. In tre righe, insomma, hai fotografato i mali principali dell'Italia di oggi per i suoi giovani più qualificati e dall'apertura internazionale: gerontocrazia, outsider abbandonati a se stessi, incapacità di fare sistema, un mix micidiale per chi vuole costruire, questo ti chiedo, un'Italia diversa? Direi letale, forse. Basti pensare che tutte le energie fresche sono bloccate sul nascere, un po' per l'impossibilità di trovare uno scenario che favorisce la sperimentazione, la voglia di provare e di fare impresa nel vero senso della parola. Luca, partiamo dai tuoi studi. Dalla Scuola Superiore in Arti Grafiche Pubblicitarie passi allo IULM, a Milano corso di Scienza della Comunicazione, abbini dunque arte e semiotica, una scelta studiata a tavolino e se sì perché? Studiata a tavolino ma generata d'impulso, per un'idea, una visione che negli anni 90 mi faceva credere che unire il sapere accademico alla sperimentazione di linguaggi in campo artistico avrebbe generato un'interessante fucina espressiva da mettere al servizio delle tante eccellenze italiane. E che bilancio dai ora di quell'esperienza universitaria? In una email denunci la quasi totale assenza di ricerca in ambito accademico. Cosa c'era che non andava? Probabilmente il corso di laurea in scienze della comunicazione era troppo nuovo e quindi ancora molto concentrato sulla possibilità di creare dei profili intelligibili e quindi vendibili, facilmente vendibili e inquadrabili, e quindi con scarsa propensione a sperimentare e ricercare. Comunque non ti perdi d'animo e con tuo fratello e un altro paio di amici fondi ancora da studente un primo piccolo studio. Siamo nel 2001. Qual era l'idea di base? L'obiettivo era quello di proporre un'idea esperienziale e multisensoriale della comunicazione d'impresa, in particolare nella progettazione dei brand spaces, quindi tutti quegli spazi fisici attraverso i quali un brand può comunicare con il pubblico. Gli inizi, bisogna dire, non sono del tutto negativi, trovi anche importanti appoggi, sia grazie a una rivista, sia attraverso alcuni imprenditori, poi però questi aiuti si rivelano, parole tue, casi sporadici e isolati, è il contesto intorno a voi che sembra non funzionare proprio. Qui entra in gioco anche un po' una tua disamina sulla situazione dei giovani italiani nel mondo micro del design e macro della situazione più generale, che trovo, devo dire, illuminante. Partiamo da quelle che tu definisci situazioni standard nelle quali ti sei venuto a trovare. Dei manager troppo schiavi dell'atteggiamento finanziario e non imprenditoriale, quindi con poche decisioni e poca sperimentazione, un reparto trading solo attento alle vendite e tra l'altro in tempi molto stretti, marketing vetusto e un ufficio acquisti prioritario su ogni decisione, e poi l'impossibilità di creare occasioni di partnership o co-marketing per presunto cannibalismo tra attori all'interno dello stesso mercato. E ora ti chiedo di essere rapido, ma vorrei andare con te sui 5 motivi che in qualche modo ti hanno poi spinto dopo 5 anni a guardare all'estero. L'eredità della gerontocrazia. I padri del design continuano a essere preferiti da tutte le aziende, sia per progettare i pezzi di design che per progettare negozi o sistemi di immagine aziendale strategico. Una logica imprenditoriale che anziché fare predica il fare, preferendo il chiacchiericcio e la speculazione. Tutte le eccellenze eccellenze italiane riconosciute a livello internazionale, a mio parere, sono legate al fare, sia esso artigianale o industriale. Sembra invece che oggi l'imprenditoria abbia dimenticato la passione per il proprio progetto, per la missione d'impresa, e invece ci si perda molto in dialettiche numeriche e giochi finanziari, anziché sviluppare le professionalità e integrarle con l'innovazione nel campo della comunicazione. Latitanza delle istituzioni. Le istituzioni sembrano invece più uffici che debbono stare lì semplicemente perché devono esserci, come c'è un cognome per ogni persona. Manca un monitoraggio, manca la voglia di sperimentare insieme ai cittadini e agli imprenditori, e quindi c'è uno stacco netto tra i cittadini e le istituzioni. Istituti di credito che non capiscono né scommettono sulle idee innovative. Schiavi anche loro della logica che antepone la finanza al fare imprenditoriale. E la sostanziale ignoranza di alcuni imprenditori che considerano la comunicazione e il design come un di più, quasi un accessorio alle loro attività. Questo è figlio invece probabilmente del marketing ancora vetusto. La comunicazione d'impresa, soprattutto se coordinata, olistica e sperimentale, in Italia è una materia ancora molto accademica, soltanto sui libri. Quindi l'età media alta della dirigenza in Italia risulta una barriera all'ingresso molto forte, che porta a delle logiche di giudizio che si rivolgono soltanto al mi piace, non mi piace, o alla fatidica domanda quanto mi fa guadagnare. Da qua se ne vanno tutti, canta Caparezza in Goodbye Malinconia, e te ne vai anche tu. Si accende una lampadina che ti porta e vi porta in Estremo Oriente. Quale molla fa scattare un bel giorno questo interesse? Progetto propostoci da un amico coreano che viveva in Italia. Già nel 2003 avevo frequentato Master in Comunicazioni con l'Estremo Oriente, ma questa occasione è stato il momento chiave che ci ha portato in Estremo Oriente, e attraverso questo progetto poi abbiamo aperto il mercato. E da lì, dal 2006, avete spostato praticamente quasi tutte le vostre attività, però dacci un'idea anche di quanto è difficile arrivare in questi paesi e anche di quante porte in faccia avete preso. Sì, abbiamo commesso gli stessi errori che vedo adesso quotidianamente commettere da molti imprenditori che arrivano qui pensando di insegnare tutto e scoprendo invece di essere rimasti indietro e di molto. Inevitabilmente ci sono stati grandi e piccoli problemi di comunicazione, di comprensione sia linguistica che concettuale e comportamentale. Abbiamo dovuto fare molti passi indietro, ripartire da zero e agire come dei robot multitasking, lavorando anche 20 ore al giorno per cercare casa, ufficio, informazioni con le banche, i commercialisti locali, creare materiali informativi e anche visitare porta a porta aziende e imprenditori che spesso non capivano di cosa stessimo parlando. È vero che in Olanda, ad esempio, lo Stato aiuta i suoi giovani imprenditori che vanno all'estero, anche designer, a livello pratico, a livello di sostegno e di appoggio? E in Italia no? Sì, l'Olanda si è mossa in diversi modi, ha anche aperto degli uffici di sostegno, degli hub per giovani designer neolaureati. Per quanto riguarda l'Italia, non un singolo ufficio dedicato al design, che comunque rimane una delle eccellenze del Made in Italy, e soltanto camere di commercio che funzionano come distributori automatici. Se metti 5 euro ti danno 5 euro e non un centesimo di più. Oltre ai progetti commissionati, si ha la possibilità di proporre il proprio design ad aziende manifatturiere realizzando elementi di arredo e altri prodotti che in Italia soffrirebbero della precedenza data a nomi famosi morendo sulla scrivania o nel cassetto. Così Luca Denunci, a giovani talenti @radio24.it. Allora, due domande. La prima è: cosa esattamente offrite voi, quale prodotto? E poi, la Cina è la terra delle possibilità per i giovani di talento, e cosa impedisce all'Italia di esserlo? Al momento noi siamo concentrati sulla progettazione di negozi e sistemi d'immagine per marchi del lusso e dell'abbigliamento, sia clienti locali ai quali offriamo l'eccellenza del design italiano che consente loro di ottenere un riconoscimento internazionale maggiore, sia invece a marchi internazionali che vogliono aprire il mercato cinese e quindi hanno bisogno di un ponte sia a livello comunicativo che a livello di progettazione. Al momento la Cina è sicuramente la terra delle possibilità che devono essere sapute sfruttare. All'Italia mancano molte cose. Personalmente, secondo me, c'è molta stanchezza, c'è una scarsa inerzia, una poca propensione al fare e poco coraggio di puntare su un ricambio generazionale vero e proprio. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? La vedo vecchia, generalmente stanca e sempre più sporca. Penso che occorra ripartire da capo e creare un sistema probabilmente scolastico di qualità e un sistema meritocratico che faciliti l'emergere delle eccellenze che possano agire come trascinatori per tutto il paese. Mi sono rotto, io mi sono rotto, non ho più voglia di abitare lo stivaletto, non ha più senso rimanere, grazie di tutto, aspetto ancora fine mese e poi mi rimetto. E tanto il mio lavoro inutile, diciamo futile, essenzialmente rimovibile,